Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, da Pietro Lacorte in regia. Oggi parliamo di confini dell'Europa, di confini dell'Unione. Lo sapete, a partire dal 1 luglio scorso la Croazia si è aggiunta come 28esimo Stato dell'Unione. In realtà, se c'è una cosa appunto che non è mai stata stabile nella storia, nella dinamica di questo formidabile movimento di politica, di idee, di persone, che è l'Europa, sono proprio i confini. Allora, su questo tema il punto del nostro Sergio Nava. I nuovi confini dell'Europa. Oggi vi raccontiamo come potrebbero variare in un futuro non lontanissimo i confini del vecchio continente. Nell'anno di ingresso della Croazia quale 28esimo paese dell'Unione, evento festeggiato lo scorso 1 luglio, andiamo a raccontarvi due questioni aperte e tuttora sul tavolo. La prima è interna, con forti connotazioni regionali. La seconda invece è esterna, con i paesi candidati a entrare in Europa. Tra questi il complicato caso Turchia. Iniziamo dunque con il primo dossier. La Catalunya prosegue il proprio braccio di ferro con la Spagna in un cammino che potrebbe anche sfociare in un referendum sull'indipendenza nel settembre del 2014. Un percorso che ha provocato in questi mesi forti tensioni sull'asse Barcellona-Madrid e che in qualche modo è anche frutto del fallimento del movimento regionale europeo avviato negli anni Ottanta da alcuni dei più importanti presidenti di regione. Tra loro Jordi Pujol, storico presidente catalano. Sentiamo cosa ci ha detto quando l'abbiamo incontrato nel suo ufficio poco sopra le Ramblas barcellonesi. Il movimento regionale europeo credo che è un movimento molto negativo, perché a un certo momento abbiamo potuto le regioni lavorare, fare dei progressi importanti, avere una capacità per parlare, per discutere con gli stati, eccetera. Ma finalmente c'è stata una reazione degli stati e di alcuni partiti europei contrari a tutto questo, e finalmente l'associazione della regione d'Europa, questo esiste tuttavia e lavora e se collabora bene, ma lavora con molto, solo è permesso all'associazione della regione d'Europa di lavorare in un livello molto basso, no? La possibilità di che le regioni italiane, le regioni spagnole, la regione francese, ovviamente uno dei paesi più contrari a tutto questo era la Francia, di lavorare a qualche cosa che non sia poco importante, poco importante, la possibilità di lavorare a qualcosa che sia più significato, adesso questa possibilità è molto ridotta. Dai confini interni a quelli esterni. Lo status ufficiale è quello di paese candidato, ma per la Turchia la strada che porta all'ingresso nell'Unione Europea resta in salita. Un negoziato in corso d'anni che ha visto sia Bruxelles sia Ankara prendere tempo, con l'ultimo nodo, la ferma resistenza ad aprire porti e aeroporti a navi e aerei ciprioti. Il Parlamento Europeo chiede di mantenere vivo l'interesse e non far naufragare anni di trattative in un'Europa che non ha ancora definito i propri confini in modo definitivo. Susi De Martini, europarlamentare indipendente, al microfono di Valeria De Rosa. Le opportunità sono molto grandi. Teniamo presente che la Turchia rappresenta in questo momento la nazione vicina all'Europa con il PIL più in aumento. Quindi è una nazione che ha un PIL da paesi emergenti e quindi il fatto di avere le liaison con questo paese non potrebbe fare altro che giovare all'economia europea. In secondo luogo ha una popolazione di 80 milioni di abitanti, la popolazione è giovane e quindi potrebbe esserci anche una circolazione di giovani preparati e con capacità di investimento negli altri paesi europei, laddove l'età media dei paesi dell'Europa è purtroppo una delle più alte del mondo e quella dell'Italia è addirittura la più alta dei paesi europei. Quindi noi abbiamo molti più anziani che giovani e questo chiaramente crea un problema enorme per quanto riguarda poi il problema della gestione delle pensioni. Qualche criticità io la vedo come tutela delle minoranze religiose. Non dimentichiamo che nella Turchia la nostra religione è una minoranza, così come invece nel nostro paese è una minoranza la loro religione, quindi così come noi in Italia abbiamo sempre tutelato le minoranze religiose, su questo argomento vorrei avere dalla Turchia le stesse tutele. Grazie dunque a Sergio Nava, l'appuntamento con l'Europa naturalmente per domani. Vi ricordo come sempre su radio24.it ritrovate questo e tutti i programmi di Radio 24. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.